Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e cinque minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, visto che si è chiusa la prima settimana effettiva di borsa, sarà anche l'occasione per fare il punto su come è andato questo inizio anno, un inizio anno, lo anticipiamo, positivo soprattutto per Milano, anche in generale per le borse europee, ma sarà anche l'occasione per cercare di capire quali siano le previsioni per quest'anno su titoli, soprattutto sul mercato azionario, e avremo uno spazio dedicato all'analisi, agli analisti, un po' particolari, forse alcuni di voi hanno già capito, a grande richiesta tornerà un analista che usa un approccio di analisi un po' particolare. Comunque non vi voglio rovinare la sorpresa, andiamo avanti invece sulle cose, sulla cronaca di oggi. Registriamo da un lato il fatto che, come anche ricordava il nostro GR, le trattative tra Kiev e Mosca, e soprattutto quindi con il ruolo dell'Unione Europea, stanno andando avanti. L'ultima agenzia battuta da Bruxelles pochi minuti fa dice che ormai tutto è pronto per l'immediata ripresa delle forniture di gas. Ancora parleremo della vicenda Commerzbank. Ieri vi abbiamo dato la notizia praticamente in diretta: lo Stato tedesco è entrato con un altro 25% in Commerzbank. Alcuni giornali oggi titolavano: lo Stato tedesco entra nelle generali, insomma era un po' un volo pindarico. In realtà è interessante capire come cambieranno gli assetti societari e soprattutto anche quali potrebbero essere le prossime mosse, visto che c'è una partecipazione importante italiana nella banca, perché partecipazioni di Commerzbank, la banca tedesca ha l'1,7% di Mediobanca, e Piazzetta Cuccia, cioè Mediobanca, è a sua volta il primo azionista delle generali. Ecco perché alcuni hanno fatto questo ragionamento. A loro volta le generali hanno in portafoglio 6,5% di Commerzbank. Vabbè, ne parleremo nella seconda ora del programma, anche perché oltre alla vicenda Commerzbank hanno tenuto banco in questa settimana di borsa anche i temi UbiBanca, Banco Popolare, smentita ogni ipotesi di fusione, e Mediobanca, Unicredito, anche qui smentita ogni ipotesi di fusione. Però è innegabile che qualcosa, quantomeno per quello che riguarda le voci, le ipotesi, si stia muovendo proprio nel settore bancario. Avremo anche un breve approfondimento sugli effetti più strani di questa crisi economico-finanziaria. La Kawasaki oggi ha annunciato infatti il ritiro ufficiale dalle corse, dalla MotoGP. Vuole risparmiare in questo modo circa 4 miliardi di yen, oltre 31 milioni di euro. Cercheremo di capire anche come mai una delle prime voci a venire tagliata dalle case automobilistiche e delle due ruote sia proprio la partecipazione alla parte MotoGP o Formula 1. In apertura dicevo le analisi di mercato. Rapidamente, come sta andando la borsa? Mibtel in questo momento perde quasi il 2%, l'1,8, meno 2,3 invece l'S&P MIB. Ancora Francoforte meno 2,1, Londra meno 1,1, Parigi meno 0,6% è tra le migliori. L'America perde l'1,1%. Che cosa è successo? È uscito il dato americano sulla disoccupazione, che è nettamente migliore rispetto a quel dato bruttissimo anticipato due giorni fa, peggiore rispetto alle previsioni, e comunque segnala un aumento di oltre mezzo milione di persone che hanno perso il lavoro nel mese di dicembre. Il dato non è piaciuto comunque al mercato, ecco perché Wall Street aveva aperto prima negativa, poi aveva guadagnato qualcosa, poi è tornata a essere negativa. Euro su dollaro a 1,3512, quindi in indebolimento. Euro sulla sterlina britannica, anch'esso in indebolimento, a 88 pence per un euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dai mercati complessivamente dati. Il petrolio $41,46 al barile è sostanzialmente fermo dopo quella piccola fiammata a quota $50, è tornato a $40 al barile e non sembra volersi muovere da questo livello. Vedo che alcuni di voi hanno già indovinato chi sarà l'analista con un metodo un po' particolare che avremo tra qualche minuto. Andiamo avanti, dicevo, mentre il petrolio è fermo, scende ancora l'Euribor, ossia il tasso di riferimento interbancario, al 2,7%, anzi 2,69%, e ai minimi dal 7 marzo del 2006 l'Euribor a 3 mesi. Le vicende di cui parleremo nella seconda ora, quindi Commerzbank, Generali, Mediobanca, comunque sono anche vicende di borsa. Commerzbank ha perso molto oggi a Francoforte, è arrivata a perdere in mattinata oltre il 10%, aveva trascinato con sé questo anche le Generali a Piazza Affari, che erano arrivate a perdere il 3,5%, e adesso hanno portato il calo al 4,6%, così come Mediobanca sta perdendo il 3,8%, Unicredit il 3,4%. E visto che parliamo di titoli, il peggiore in questo momento è Buzzi Unicem, -5,5%, Bulgari -5,3%, Italcementi -4,8%, Intesa -3,90%, poi Saipem -2,7%, come Lottomatica, male anche Eni ed Enel, -2,2% ognuna, e Finmeccanica -2,4%. Bene invece in pregilo, +2,9%, Banco Popolare +2,1%, Fiat +2%, e anche Fastweb guadagna il 2%, mentre la Banca Popolare di Milano guadagna lo 0,90% e Mediaset lo 0,7%. Dicevamo più del previsto, ma meno rispetto alle stime peggiori diffuse in questi giorni, i posti di lavoro persi in America a dicembre, 524.000. Sempre sul fronte della crisi, la Renault ha annunciato vendite mondiali in calo del 4,2% nel 2008, soprattutto la Opel in Germania verrà aiutata dal governo tedesco per 1,8 miliardi di euro. In realtà sono garanzie statali concesse dal governo tedesco e maggiori comunque rispetto a quanto richiesto dal responsabile di General Motors Europa, che è Carl Peter Forster. Male in Germania anche la produzione industriale, -3,1%, il dato è di novembre, così come a novembre in Gran Bretagna è crollata la produzione industriale, -6,9%, sempre su base annua, -2,4% in Francia. Manca ancora il dato italiano di novembre, noi a ottobre avevamo fatto un -6,9%. La vicenda all'Italia, io vorrei non occuparmene più, ma insomma, via libera del Consiglio di amministrazione di Air France KLM all'offerta di un'alleanza con la nuova Alitalia. Nel frattempo anche il portavoce di Lufthansa dice che i colloqui proseguono, ma non c'è, anche noi abbiamo visto perlomeno, un'offerta di Lufthansa. Nuova assemblea a Fiumicino, quella degli addetti alle attività di manutenzione, e nuovi ritardi su alcuni voli. Per quello che riguarda poi altre manifestazioni, alcuni rappresentanti del sindacato SDL hanno occupato gli uffici dove si svolgono le pratiche di assunzione della nuova Alitalia. Assemblee anche dei lavoratori cargo sono riuscite a essere sdoganate, solo le rane vive. Un carico di 1.000 chili di rane vive arrivati ieri dall'Egitto è stato sdoganato dopo l'intervento della polizia. E va bene, dalle rane vive sdoganate con l'intervento della polizia, passiamo a cose ben più serie, ossia vorrei parlare adesso degli analisti, di chi fa le previsioni. Sono stati molto criticati nel 2008, non hanno quasi mai azzeccato. Non mi riferisco solo alle previsioni sui titoli, ci mancherebbe, ma anche le previsioni dei maggiori dei maggiori istituti in generale, su come sarebbe andata l'economia e su come invece l'economia non è andata. Lo facciamo perché, dicevo, si è chiusa la prima settimana vera e propria di borsa, si è chiusa, adesso vedremo come andrà col dato finale, ma tutto sommato dovrebbe segnalare un MIB in rialzo del 3%, col calo di oggi forse un po' meno, l'S&P MIB un 3,5%, anche qui forse mezzo punto in meno. Bene anche a Parigi e anche a Londra. È importante allora cercare di capire con gli analisti che tipo di previsioni si possono fare sull'anno. Ora, esistono vari tipi di approcci, di analisi nel mercato azionario, analisi tecnica, analisi dei fondamentali di bilancio, analisi dei fondamentali economici, insomma vediamo un po' intanto di ripercorrere come e quanto ci hanno azzeccato i grandi istituti, le grandi banche d'affari, o quelle che erano le grandi banche d'affari nel 2008. Fine 2007, Goldman Sachs, la recessione in America è improbabile fino all'inizio del 2009. Le imprese americane dovranno e registreranno quindi una solida crescita dei loro utili. Inizio 2008, la Federal Reserve e la maggior parte degli analisti, l'America riacquisterà vigore dalla seconda metà del 2008 e il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, non prevediamo una recessione in America. Il Wall Street Journal, pochi mesi dopo, quello attuale non è un bello spettacolo, ma il peggio è tutt'altro che inevitabile. Siamo di fronte solo a un rallentamento della crescita, non c'è nessuna recessione. Il 3 luglio del 2008 la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse perché le prospettive di un aumento dell'inflazione in Europa sono drammatiche e questo è il vero problema che affronta l'area euro. Il petrolio, il 5 maggio dell'anno scorso, Goldman Sachs scrive: il petrolio raggiungerà i $150-200 nel giro di un anno. Il settore immobiliare, Merrill Lynch prevede per il 2008 buoni risultati, tutto il settore continuerà a crescere anche se non come nel 2007, non c'è alcun rischio di credit crunch. Risparmio per grazia, visto che è venerdì, tutte le previsioni sui titoli, target price, titoli a 10, 12, 15 euro che adesso ne valgono 1, 2, 3. E vabbè, e questo insomma è solo la punta dell'iceberg, questo è anche per dire che insomma, quando si mettono a fare le previsioni, gli analisti sembrano più degli apprendisti, stregoni, maghe. Vabbè, sì, c'erano anche le previsioni di Lehman Brothers sulle altre banche, tenere, vendere, poi alla fine sono loro che sono scomparsi. Finanza bellezza, ma a questo punto potevamo chiamare analisti tecnici, analisti qualitativi, analisti quantitativi, psicoanalisti. Preferiamo basarci sulle stelle? A grande richiesta, lo dico senza alcuna ironia perché abbiamo avuto decine e decine, centinaia di richieste, torna per farci capire come andrà il 2009, tanto voglio dire, visto che qua Goldman Sachs, Merrill Lynch, Ben Bernanke, la BCE, tutti possono dire quello che vogliono, essere smentiti un mese dopo, dicevo, torna a grande richiesta. Grazia Mirti, autrice di un libro del Sole 24 Ore, Investire con gli astri. Buonasera. Buonasera. Allora, spero che Cenerentola le sia piaciuta, a noi è piaciuta molto come base. Purtroppo tutte le previsioni che ho letto sono previsioni vere, diffuse, che vengono anche pagate caro, le case di investimento infatti si fanno pagare per queste previsioni e ho risparmiato le agenzie di rating, anche perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, non me ne vogliono Moody's, Standard & Poor's e Fitch, però insomma. Allora, come andrà questo 2009? Se ho ben capito, all'interno di questa analisi sulla borsa, c'è una mutua ricezione tra pianeti, Giove, Nettuno, Urano, mai così disposti negli ultimi 2500 anni, è giusto? Esatto, praticamente mutua ricezione significa che Giove sarà nel segno dell'acquario, che è l'habitat ideale di Urano, mentre Urano sarà nel segno dei pesci, che è l'habitat naturale di Nettuno e Giove. Questo scambio di domicili in termini tecnici indica che possono accadere delle cose mai successe prima. Io però vorrei cominciare col dire che il 5 gennaio Giove ha fatto il suo ingresso nel segno dell'acquario, che è il segno della Borsa di Milano, che è nata a Milano per l'appunto il 6 febbraio 1808, che le statistiche dicono che quando Giove transita nel segno dell'acquario la Borsa di Milano viene protetta. Basta pensare al 1997 per ricordare come ci sia stato un recupero rispetto agli anni precedenti. Quindi la mia idea è che l'anno possa cominciare bene e in particolare invito gli ascoltatori a verificare le quotazioni immediatamente dopo la luna nuova, che è il ciclo di un mese circa, proprio quella nera disegnata sui calendari della cucina. Quindi la prima luna nuova adesso sarà il 26 gennaio, osservare le quotazioni immediatamente dopo e così ci si può già fare un'idea di come sarà il trend mensile. Dopo il 26 gennaio, scadenza tecnica la luna nuova, ho capito bene? Sì, esatto. Perfetto. Ma mese per mese, ogni mese c'è una luna nuova e io direi che i primi mesi sono cautamente ottimisti. Mm-hmm. Purtroppo c'è poi una serie di configurazioni molto più inquietanti, una intorno a Pasqua e più avanti nel tempo, specialmente a partire da fine estate, autunno, lì sarei più prudente. Però nella prima metà dell'anno ci sono le possibilità di conservare delle posizioni e forse di migliorarle. Malmessa sempre la tecnologia, perché è rappresentata da Urano, che per la maggior parte dell'anno sarà avversato da Saturno a 180 gradi. Questo vuol dire che automobili e tecnologia in genere non hanno grandi chance, potranno farsi aiutare ma le cose non andranno proprio così brillantemente. Diciamo, qualche sospetto l'avevamo avuto anche noi. No, però è una conferma. Certo. Sicura di questa cosa. E poi per quanto riguarda invece altre caratteristiche dell'anno, per molti mesi da fine aprile ci sarà una congiunzione Giove-Nettuno nel segno dell'acquario che potrebbe favorire l'energia alternativa, la scoperta di nuovi mezzi propulsivi che possano alternarsi alle energie tradizionali e questo potrebbe essere di sicuro aiuto per la situazione attuale. Visto che stiamo c'è qualche analista che si sta arrabbiando e va bene, ce la faremo, adesso li facciamo risentire anche la nuova base di Focus, ma a parte gli scherzi andiamo rapidi sui mercati. Sì. Italia, quindi? Italia è protetta. Direi che persino c'è un exploit di pianeti in acquario intorno appunto alla luna nuova del 26 febbraio e quindi direi che possa fare abbastanza bene. Le tre borse internazionali trainanti sono nate tutte e tre in Toro. sono sia la borsa di New York che quella di Tokyo che quella di Londra, e le borse che hanno appunto questa nascita tra il 15 e il 18 di maggio sono un po' avversate da Nettuno, ma possono anche avere delle buone spinte, hanno un momento particolare che è fortissimo, che è quello dei primi di luglio, fine giugno, primi luglio, lì bisognerà usare prudenza e cautela, perché questi passaggi di Marte possono essere sia stimolanti ma anche un po' deprimenti. E poi un altri momenti che possono essere complessi sono quelli di fine anno, gli ultimi mesi dell'anno, però in generale non ci sono delle catastrofi celesti così forti in cielo. Beh, almeno in cielo che... diciamo. Va bene, New York quindi? New York quindi la direi tranquilla con questa incognita del periodo di Pasqua in cui Marte e Urano si congiungono per opporsi a Saturno, lì potrebbe esserci qualche complicazione seria a livello internazionale, con una buona ripresa tra fine aprile, maggio, giugno, e poi potrebbe esserci invece in autunno il solito alto e basso, perché essendo le borse nate in maggio di solito in autunno sono quelle fasi. Quindi scadenza caratteri. Tecnica per New York, aprile e autunno, le borse asiatiche, Tokyo. Le borse asiatiche, Tokyo, direi che vanno peggio, nel senso che veramente io ho confrontato tutti i temi della luna nuova domificati a Tokyo e ho notato che c'è una veramente una situazione tecnologica di gran lunga peggiore rispetto agli altri paesi, quindi li vedo decisamente in situazione di peggioramento, specialmente poi tra estate e autunno. Un pochino meglio in primavera perché ci sono alcuni transiti favorevoli, però decisamente peggio borse asiatiche. Allora, io le auguro buon anno, che insomma è un po' augurare buon anno a un'astrologa sembra quasi così una sfida. Grazie a Grazia Mirti, poi ci faccia sapere se tornerà a pubblicare con Sole 24 Ore un'altra edizione di Investire con gli Astri. Le previsioni le avete ascoltate, poi le verificheremo anche noi come abbiamo sempre fatto con gli analisti. Ormai siamo alle pagliacciate sulla finanza, scrivono alcuni di voi. Eh sì, perché invece dare una A a Lehman Brothers il giorno prima che saltasse per aria, quella è roba seria. Standard & Poor's il giorno prima del crack Lehman Brothers. O Fiat a 15 euro per azione? Ne vale 5,6, la maggior parte degli analisti a un mese prima del crack. Le pagliacciate della finanza, sì, o la finanza dei pagliacci, visto quello che è successo. Adesso spero che alcuni di voi abbiano apprezzato anche l'ironia. Dopodiché, signori, verifichiamo i dati e magari ci ha imbroccato l'astrologa. Qualcuno si ricorda il monkey business americano? Le scimmie, i titoli li scelgono meglio delle scimmie più evolute. Senza gemelli, senza gessati e senza milioni e milioni di bonus. Perché poi se parliamo di pagliacciate è molto più serio l'atteggiamento che hanno avuto i vertici di Bear Stearns, che mentre la banca stava fallendo giocavano a bridge staccando i cellulari. Quelli di IAG che sono andati in vacanza in 40, hanno speso $600,000 e anche lì non potevano rimandarla il giorno prima del salvataggio del crack perché era già in agenda. Ma quelle sono persone serie, noi invece siamo dei pagliacci. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, non vi dico i messaggi al 349-238-6666, chi vuol capire capisce, come fate a fidarvi un'astrologa? Ho capito, ci mancherebbe, ma come ci si fa a fidare a chi dice che il problema dell'Europa è l'inflazione a luglio e poi taglia i tassi quattro volte? Sai chi è? La BCE. Comunque, Chiudiamo questo tema, voglio dire, perché era dovuto, lo chiedevate, molti di voi lo chiedevano da settimane, e poi non è che si possa far passare sempre tutto in cavalleria, c'è gente che viene pagata molto bene per fare previsioni molto sbagliate, c'è gente che viene pagata molto male, nel senso che va in cassa integrazione per non aver fatto nessuna previsione, e questo non è populismo, ve lo assicuro, sono dati alla mano. Ve ne voglio leggere una però che è una chicca. Il gruppo Parmalat ha un'alta probabilità di diventare nel nostro portafoglio il prossimo Worldcom o la prossima Enron. Non credo che sia una prospettiva positiva, un'intuizione efficace, quella degli analisti dell'agenzia americana di rating Standard & Poor's, in uno scambio di email tra l'11 e il 12 settembre. E infatti, cosa hanno fatto gli analisti americani? A Parmalat, due mesi prima del crack, gli hanno confermato le prospettive. Da positive a stabili. E il rating resta confermato, BBB. Meglio la maga? Bah. Andiamo con la borsa, perché ne abbiamo una lista, un pacco di note, di analisti, di agenzie, di banche, d'affari, ma per carità, ma fatemi un favore, è colpa anche nostra che l'abbiamo spesso diffusa in questi anni, ma che dovevamo fare? Sembravano tutte cose serie e poi abbiamo capito che erano zucche. Allora, zucche diciamo come previsioni, non come persone, ci mancherebbe. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, vuoi anche tu la musica di Cenerentola o mi racconti com'è andata la giornata di borsa? Sì, la giornata di borsa è stata abbastanza brutta, meglio passare la giornata di borsa. Passiamo alla giornata di borsa. In realtà Wall Street ha reagito in maniera altalenante al dato sulla disoccupazione, perché prima l'ha preso bene, nel senso che era risultato inferiore alle peggiori stime, e poi di nuovo è tornata in negativo, ora perde l'1% il Dow Jones. Esatto, infatti anzi Wall Street è andata giù e ha trascinato in giù tutti i mercati europei. Milano sta facendo peggio delle altre borse europee, visto che nei giorni precedenti comunque aveva registrato sempre rialzi più sostenuti, quindi i realizzi evidentemente sono di maggiore consistenza. Meno 1,96% il MIPTEL, meno 2,6% l'S&P MIB. Ovviamente c'è preoccupazione per lo stato dell'economia, del resto proprio oggi è emerso che negli Stati Uniti la situazione è poco florida. È vero sì che sono stati soppressi posti di lavoro in linea con le aspettative, d'altra parte i posti di lavoro sono comunque calati a dicembre di 525.000 unità. Sì, che è il dato più o meno atteso su questo. C'era chi è arrivato a dire saranno quasi 700.000. Comunque, andiamo sui titoli della vicenda Commerzbank, Generali e chiaramente anche Mediobanca. Parleremo nella seconda ora del programma. I titoli hanno reagito. Commerzbank molto male oggi in Germania e anche da noi male Generali e Mediobanca. Esattamente, infatti soprattutto Generali ha perso il 5,3%, ricordiamo che Generali detiene una quota pari all'8,8% in Commerzbank. Commerzbank, come hai detto tu, è scivolata molto nella giornata odierna, ma soprattutto erano più sedute che continuava a perdere terreno. Ancora andiamo avanti con i vari titoli, ben alcune banche, scusami Eleonora, e mi riferisco al Banco Popolare che è il miglior titolo oggi nell'S&P MIB, più 3,2%. Sì, il Banco Popolare, a parte la battuta d'arresto di ieri, peraltro sono più sedute che è sotto l'attenzione a Piazza Affari. In un primo momento si erano diffuse le solite voci, comunque smentite, di una fusione con UBI, che peraltro oggi ha perso l'1,97%. Poi oggi si è tornati a parlare di grande attesa per la presentazione del piano industriale che dovrebbe essere messo a punto dal consigliere delegato Pier Francesco Saviotti, anche se dalla banca ribadiscono che non è stata fissata alcuna data, anzi non è nemmeno chiaro se verrà presentato effettivamente un piano industriale. D'altra parte il mercato ci crede e ha fatto salire le azioni. Ancora tra i titoli, bene Fiat più 2,8%, parliamo di giudizi, c'è un giudizio positivo di Merrill Lynch. Esatto, infatti oggi è stata Mary Lynch a riaccendere i riflettori. D'altra parte, al di là di Mary Lynch, i titoli erano ben comprati da più sedute, quindi in verità Mary Lynch è venuta in seconda battuta. Sono stati infatti dati sulle immatricolazioni prima italiane, pubblicati venerdì scorso a borsa chiusa, lunedì quelle francesi. Fiat ha registrato ovviamente un calo, ma è andata comunque meglio del mercato italiano e francese, e poi soprattutto sono state le immatricolazioni anche brasiliane, che sono state quelle di dicembre migliori delle attese in rialzo. Ed inoltre i produttori appunto brasiliani hanno rivisto al meglio anche le prospettive per il 2009. Allora, altri titoli oltre a quelli già citati di Fastweb, abbiamo detto in apertura più 2,2, come in pregiro Terna più 0,80, Mediaset più 0,7%. Tra chi è andato male? Buzzi Unicem il peggiore, meno 5,5, assieme a Bulgari. Bulgari è scesa a questo punto ai livelli a 4 euro per azione, ai livelli di aprile 2003. Esatto, infatti i titoli appunto sono precipitati, soprattutto da numerose sedute che accusano un ribasso dietro l'altro, andando appunto ai minimi dalla primavera del 2003. E ovviamente si teme molto per i conti del 2008, per un calo delle vendite. Del resto lo stesso amministratore delegato Trapani non ha mai nascosto la propria preoccupazione. A dicembre aveva non solo fatto un profit warning, ma ha indicato la sua aspettativa anche per un Natale brutto. Comunque i dubbi o le aspettative verranno svelati il prossimo 29 gennaio, quando la società appunto pubblicherà i conti. Ancora fra i titoli di generale abbiamo detto Intesa, anche molto debole oggi, meno 4,7%, e poi due titoli legati alle costruzioni come Italcementi, meno 4,60, e Buzzi Unicem, meno 5,5. Sì, oggi c'è stato un riassetto diciamo a livello settoriale, si è andati a vendere ovviamente tutti quei titoli che sono maggiormente legati al ciclo economico, e quindi questi, oltre ovviamente a quelli del settore bancario, fatta eccezione, come abbiamo detto prima, di Banco Popolare. Andiamo avanti, altri titoli: Unicredito meno 3,50, ne parlavamo, Prismia meno 3, Enel meno 2,7, Lottomatica meno 2,7, Finmeccanica meno 2,5, Saipem meno 2,4, Pirelli meno 2,3%. Deboli oggi gli energetici, Leonora, Eni perde l'1,7%, Snam l'1,4% sul listino, e Enel appunto il 2,7%. Sì, in questo caso è stato il ribasso del petrolio poco fa, intorno alle 16.40, alle 17, il petrolio ha accentuato il ribasso e ha violato al ribasso appunto la soglia dei 40 dollari al barile, quindi ovviamente questo pesa su tutto l'andamento del settore petrolifero, che è andato male non solo in Italia ovviamente, ma anche in Europa. Il sottoindice di settore ha accusato un ribasso dello 0,75%. Ancora tra i titoli abbiamo visto di nuovo in difficoltà ST Microelectronics, è un titolo che sembra quasi non riuscire a staccarsi dai prezzi in cui viaggia, Leonora. Sì, in questo caso infatti sono state le prospettive diciamo per l'azienda che hanno pesato sull'andamento delle azioni. Ricordiamo che due giorni fa l'americana concorrente di ST Intel ha lanciato un profit warning, e soprattutto poi ieri una società americana di ricerche ha diffuso stime poco allettanti, cioè prevede che nel 2009 avverrà un calo del 4% per quanto concerne appunto la domanda di chip, e questo ha pesato ovviamente su tutto il settore. Ancora tra i titoli generalmente abbiamo visto, Eleonora, alcuni recuperi sui bancari, mi riferisco soprattutto, Banca Popolare l'abbiamo già commentato, ma anche la Banca Popolare di Milano, che è un po' di giorni che non si muove male. C'è qualche notizia in giro? Più 0,6? No, notizie non ce ne sono, ha fatto più 0,6 sul finale, forse era rimasta più in ombra nei giorni scorsi, proprio mentre salivano ad esempio altri istituti come Intesa, ma soprattutto anche come la stessa Unicredit, che invece oggi andata male, ha chiuso meno 3,5, ma durante della seduta è arrivata a perdere oltre il 4%. Allora, il mercato valutario, l'euro scende 88 pence ci vogliono per comprare un euro, mentre ci vogliono 1,35 dollari per comprare un euro, quindi l'euro si è indebolito sia, seppur relativamente, sia sul dollaro che sul sterlina. Grazie Eleonora Micheli. Buona serata a tutti. Vabbè, non ve la prendete, lo dico agli analisti che continuano a scrivere, abbiate pazienza, ma tutte le previsioni che abbiamo letto sono previsioni reali e non le abbiamo inventate. Alcuni ci chiedono giustificazioni sulla Banca Centrale Europea. Il 3 luglio la Banca Centrale Europea aumenta i tassi, li porta al 4,25%, perché dice che in Europa si segnala un grosso problema di inflazione. Il dato è di 3 giorni fa. A dicembre l'inflazione in Europa crolla. E allora, meglio gli apprendisti stregoni o le astrologhe certificate? Non lo so, c'è poi chi ritiene addirittura che abbiamo cercato di promuovere un libro di sole 24 ore. Abbiate pazienza, il libro non è più in edicola, per cui non c'è nessun conflitto di interessi. minuti, parliamo adesso di un altro tema serio, serissimo. Voglio dire, anche il tema degli analisti è serio, serissimo, dipende se poi lo si affronta come un macigno o ridendoci sopra, però voglio dire, quello che hanno combinato non gli analisti, le banche di investimento, chi ha suggerito e anche alcuni analisti, è grave, gravissimo, serio, serissimo. Dicevo, altro tema, mi riferisco all'impatto di questa crisi economica su un settore sportivo che nessuno immaginava lì per lì che ne sarebbe stato travolto quasi in qualche modo, ossia le due e le quattro ruote. Eh sì, perché oggi ufficialmente il costruttore di moto giapponese Kawasaki ha annunciato la decisione di ritirare con effetto immediato tutta la propria scuderia dalle competizioni di MotoGP. Alla base del ritiro, ha spiegato la Kawasaki, il calo delle vendite dovuto alla pesante crisi economica internazionale. Il ritiro dal MotoGP permetterà a Kawasaki di risparmiare su base annua circa 4 miliardi di yen, sono poco più di 31 milioni di euro. Ma la cosa che insomma stupisce o comunque fa pensare è che Kawasaki ha semplicemente seguito quanto già fatto da Honda in Formula 1, da Subaru e Suzuki nel rally. Tra l'altro la Honda, un'agenzia di ieri, sta valutando le offerte di 12 compratori per il suo team di Formula 1. L'ha reso noto lo stesso capo esecutivo della Honda Racing, Nick Fry, ha detto: è un momento positivo, abbiamo ricevuto complessivamente 30 offerte, le abbiamo circoscritte a 12 offerte di soggetti che vorrebbero rilevare il team Honda in Formula 1. Come se non bastasse, e gli appassionati di Formula 1 lo sanno, nel 2009 i costruttori aderenti alla Formula 1, al FOTA, hanno raggiunto un accordo per ridurre i costi. La durata dei motori viene raddoppiata da almeno 3 GP, con un massimo di 8 motori impiegati. Se non voglio entrare nella parte tecnica, vengono diminuiti di molto i test di sviluppo, per cui niente più collaudi durante la stagione sportiva, a eccezione del fine settimana. Vabbè. Questo dovrebbe permettere ai vari team di risparmiare circa il 50% rispetto ai costi del 2008. E poi dal 2010 le scuderie indipendenti potranno acquistare propulsori a meno di 5 milioni di euro per ogni stagione. E insomma, abbandonata anche l'idea del motore unico, che ha fatto minacciare diversi team, inclusa la Ferrari, di lasciare la Formula 1. Ora, ogni team ha le sue buone ragioni, ma io vorrei capire, vista diciamo le difficoltà che stanno attraversando l'industria automobilistica in primo luogo, ma anche quella delle due ruote, se veramente partecipare alla Formula 1 o a MotoGP abbia un peso così rilevante dal punto di vista finanziario, o invece non sia anche un segnale che si dà complessivamente al gruppo e alla società. Ringrazio quindi per averci raggiunto in collegamento l'amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. domanda semplice, ma veramente costa così tanto? Perché 31 milioni di euro sono tanti, ma per un colosso come la Kawasaki forse non sono tantissimi, o no? Ma 30 milioni di euro è sicuramente una cifra estremamente impegnativa, perché certamente un colosso come la Kawasaki ha delle grandi dimensioni, ma è anche diversificato in molte aree di business, quindi alla fine comunque questo, che è un costo che viene investito come promozione, come ricerca per il mondo due ruote, deve essere comunque compensato dei ricavi adeguati del mondo due ruote, cioè ci sono comunque dei settori di business molto separati all'interno dell'azienda. Ma vuol dire, quindi secondo lei il motivo è non andare a prendere delle perdite in un settore che altrimenti le avrebbe avute, o complessivamente bilanciare quello che è lo stato, il bilancio, lo stato patrimoniale dell'intera azienda? Ma penso che il ragionamento è stato fatto giudicando le redditività dei singoli settori e cercando di mantenere una redditività adeguata dei settori singoli. Devo dire poi che il caso di Kawasaki è abbastanza atipico, nel senso che ci troviamo di fronte a un costruttore che per molte ragioni ha ottenuto molto poco come risultati negli ultimi anni, e probabilmente anche per questo ha dovuto sostenere tutti i costi da parte sua, nel senso che è riuscito a ricavare molto poco attraverso contributi di sponsorizzazione esterna. Ecco, questo forse è un po' il punto che va considerato. Probabilmente per loro il costo è il costo pieno, per costruttori che hanno ottenuto dei risultati migliori e che hanno grazie a questo anche potuto contare sul contributo di partner esterni, il costo che poi grava sull'azienda è sensibilmente inferiore. Il ritorno, ne abbiamo discusso già altre volte, perché un investimento è giudicabile certo sui risultati ottenuti nella classifica, ma anche come immagine complessiva. Il ritorno che voi vedete, perché per la Ducati immagino sia cruciale partecipare al MotoGP, no? Ma certamente il ritorno è fortissimamente dipendente dai risultati, c'è un ritorno che si misura in termini di spazio media immediatamente, e quindi questo è misurabile in modo anche abbastanza scientifico, c'è un ritorno molto più difficile da misurare che in qualche modo il coinvolgimento emotivo, no? Di tutti gli appassionati, di tutti i tifosi della marca, che però ci può essere solo se i risultati sono buoni, e quindi certamente noi abbiamo riportato in Italia un titolo mondiale l'anno scorso dopo oltre 20 anni che era assente, generando un interesse direi eccezionale, quindi il ritorno è stato fantastico e in un qualche modo anche grazie a questo, anche grazie in qualche modo a un marchio che ci ha aiutato in questo, siamo riusciti nel tempo a costruire un gruppo di partner che ci aiutano a sostenere questo sforzo, che lo rende decisamente più accessibile e sopportabile anche in una situazione economica difficile come questa. Ecco, dottor Domenicali, rassicuriamo i tifosi da Ducati che già stanno scrivendo, voi non avete nessuna intenzione di ritirarvi dal MotoGP, no? Beh, direi che è un po' sottinteso per i ragionamenti che abbiamo fatto negli ultimi minuti. In qualche modo la nostra posizione è molto diversa, sia perché il nostro sbilancio economico è molto diverso grazie al lavoro anche di marketing che siamo riusciti a realizzare negli ultimi anni, e soprattutto è molto diverso il bilancio dei risultati, quindi nel momento in cui si valutano, come sempre giustamente nelle aziende, i rapporti costi-benefici delle attività, ovviamente abbiamo su un piatto della bilancia dei benefici molto, molto importanti. Un'ultima domanda, le chiedo in questo caso un commento più da esperto e conoscitore delle due ruote che non della parte MotoGP. Noi parliamo sempre o quasi sempre delle quattro ruote per vari motivi, insomma, e della crisi che sta attraversando i colossi americani ma anche quelli europei. Anche le due ruote non stanno attraversando un periodo bellissimo con varie differenze al suo interno. Ecco, lei, gli chiedo appunto un giudizio più da osservatore e da conoscitore. Che dinamiche sta registrando nel mondo delle due ruote? Complessivamente in crisi o con dei grossi distinguo all'interno dei vari modelli e soprattutto delle varie categorie? Ma diciamo che in un qualche modo anche il mondo delle due ruote è colpito da questa recessione economica, anche se direi in un modo abbastanza diverso da quello che abbiamo visto sulle quattro ruote. Noi facciamo dei monitoraggi continui e in un qualche modo il mondo delle quattro ruote ha cominciato ad avere dei cali, delle flessioni importanti già prima dell'estate, mentre per il mondo delle due ruote fino a ottobre il mercato è stato ragionevolmente vicino a quello dello scorso anno. La situazione è abbastanza peggiorata invece nei mesi di novembre e dicembre. anche all'interno di questo peggioramento che quindi abbiamo registrato, ci sono però delle differenze molto importanti all'interno delle singole marche. Il mondo delle ruote è molto più, se vogliamo, emozionale, e quindi è molto legato al fatto che una marca abbia dei modelli nuovi all'interno della gamma e dei modelli che abbiano in qualche modo coinvolto emotivamente anche gli appassionati. Per noi il 2008 lo abbiamo chiuso molto bene, nonostante tutte le negatività, in qualche modo a dimostrazione del fatto che queste differenze ci sono state. Certo che quando il grosso calo ha cominciato a manifestarsi, e in parte abbiamo cominciato a vederlo pur se in misura limitata anche noi, eravamo in un momento di bassa stagionalità, le due ruote in, ovviamente per ovvi motivi di, certo, di stagionalità, siccome la maggior parte delle vendite è concentrata nell'emisfero nord, sono di bassa stagionalità, quindi la preoccupazione per l'anno in corso è comunque una preoccupazione che c'è e che ci fa pensare di avere una certa attenzione. Beh, io le auguro intanto in bocca al lupo per la Ducati Corse, insomma, senza voler preferire nessuno, ma noi preferiamo sempre gli italiani. Grazie all'amministratore delegato della Ducati Corse, Claudio Domenicali. Grazie a voi, buona serata. Vabbè, concludiamo questa prima ora come l'abbiamo iniziata, visto che ancora c'è chi si ostina a dire che stiamo confondendo l'astrologa con chi studia l'economia. Allora vi faccio sentire un pezzetto che non è di un analista, o meglio è di chi ha in mano l'analisi più importante in assoluto. Jean-Claude Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea a luglio di quest'anno. We decided at today's meeting to increase the key ECB interest rates by 25 basis. Alla riunione odierna abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa per prevenire effetti di second round sui prezzi e per contrastare i rischi al rialzo per l'inflazione nel medio periodo. L'inflazione ha continuato a crescere in modo significativo dallo scorso autunno e ci aspettiamo che i prezzi al consumo rimarranno alti per un periodo più lungo di quanto avevamo previsto. I fondamentali dell'economia della zona euro restano solidi, ma continuano a esserci rischi al ribasso. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che dica che ci sono episodi di stagflazione a livello globale. Penso che stiamo assistendo ad un momento in cui l'economia globale sta dimostrando di tenere. At the global level have an economic situation which is a situation where growth is there. Luglio, l'economia europea sta tenendo. Jean-Claude Trichet, non ci sono casi di stagnazione economica all'orizzonte. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Adesso non riprendiamo né Magica Bula né la sigla di Cenerentola né i commenti sulle previsioni quanto mai poco azzeccate dell'anno scorso. Ognuno faccia a questo punto le riflessioni che vuole, noi qualche spunto ve l'abbiamo dato. Invece torniamo sulle notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. Per chi si fosse appena messo in collegamento, la chiusura delle borse è stata debole in tutta Europa. Milano ha perso il 2,6% sull'S&P MIB, il 2,4% il 2% sul MIBTEL, Francoforte meno 2, Londra meno 1,3, Parigi meno 0,75%. Ha pesato su Francoforte e in parte anche su Milano l'ingresso dello Stato in Commerzbank, ieri l'annuncio 25%, a Milano questo ha significato un calo abbastanza consistente per le generali, meno 5,3%, più che consistente, e per Mediobanca meno 3,9%, Commerzbank in Germania è arrivata a perdere anche più del 10%, soprattutto in mattinata. Gli altri titoli: bene il Banco Popolare più 3,2% e Fiat più 2,8%, male Buzzi Unice meno 5,5%, Bulgari meno 5,5%, e Intesa meno 4,7, così come Flette Unicredito del 3,5%, Prismian del 3%, Enel del 2,80%. Chi ci scrive: volete far passare l'idea che sia meglio l'astrologa del Presidente della Banca Centrale Europea? No, ci mancherebbe, però che ogni tanto un po' più di prudenza ci voglia, quella forse sì. Le notizie in breve. Dati sull'occupazione americana, anche qui arrivano molti messaggi al 349-238-6666. Sono dati chiaroscuro, ma non vuole essere una definizione così pilatesca. Perché? Perché rispetto alle stime diffuse due giorni fa sono andati molto meglio, ossia i disoccupati americani non hanno toccato quota 700.000, ma si sono fermati laddove si prevedeva che si fermassero. 524.000 persone hanno perso lavoro nel mese di dicembre negli Stati Uniti, che è un numero molto alto, però ripeto, non così brutto come si temeva, ma nemmeno meglio delle previsioni. E complessivamente nel 2008 l'economia americana ha perso 2 milioni e 600 mila posti di lavoro, non accadeva dal 1945, ossia dalla fine della seconda guerra mondiale. Ecco perché la reazione poi di Wall Street è stata molto molto incerta. Alla fine, anzi in questo momento, il Dow Jones sta perdendo un punto percentuale. Negative, ma c'era da attenderselo, anche tutti i dati sulla produzione industriale di vari paesi europei. Oggi manca ancora l'appello all'Italia sul mese di novembre, però la Germania ha fatto un meno 3,1% su base mensile, la Gran Bretagna ha fatto rispetto al novembre di un anno prima un meno 6,9%, la Francia un meno 2,4%. Il deficit italiano nei primi 9 mesi dell'anno è salito al 2,1% contro l'1,2% dei primi 9 mesi del 2007, praticamente quasi raddoppiato. Bene invece le entrate totali nel terzo trimestre 2008, più 3,1%. Per quello che riguarda l'Italia, via libera del Consiglio di amministrazione di Air France all'offerta per un'alleanza con la nostra, con la nuova, diciamo, all'Italia. Lufthansa dice tramite il portavoce che i colloqui proseguono, nuove assemblee di dipendenti o ex dipendenti dell'Italia in corso a Fiumicino. E poi la vicenda del gas. Allora, la schiarita sembrerebbe confermata, visto che circa un'ora e mezza fa da Bruxelles la Commissione europea ha fatto sapere che tutto è pronto per un'immediata ripresa delle forniture. Ci vorranno comunque 3 giorni dal momento in cui la Russia riaprirà i rubinetti del gas, perché il gas, diciamo, dal momento in cui si decide, perché effettivamente le forniture vengono completamente riaperte. Vorrei però capire se al di là del, così, dell'ottimismo, della speranza di Bruxelles, se già da stasera si arriverà a una riapertura delle forniture, oppure se in realtà la situazione è un po' più così complicata ancora e interlocutoria. Ci colleghiamo allora con Mosca, dove c'è Vladimir Sapochnikov, il nostro Vladimir Sapochnikov. Buonasera Vladimir. Sì, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Purtroppo la situazione non è così positiva, non è così ottimistica. Le ultimissime notizie che in questi minuti arrivano dalla capitale ucraina, Kiev, fanno capire che Russia, Ucraina e l'Unione Europea proseguono ancora i colloqui sul monitoraggio del flusso del gas russo attraverso il territorio ucraino. Proprio da Kiev le fonti vicine al primo ministro ceco Mirek Topolani, che ricordiamo il cui paese detiene la presidenza semestrale della UE, hanno dichiarato a chiare lettere che sarà molto difficile, impossibile quasi, che l'accordo trilaterale sia siglato entro stasera. Secondo Mosca, l'Ucraina ancora non vuole accettare la partecipazione dei rappresentanti del monopolio russo Gazprom alle missioni internazionali degli ispettori, una condizione obbligatoria a cui Mosca aveva vincolato il ripristino delle proprie esportazioni del gas attraverso il territorio ucraino. Allora Vladimir, voglio dire, se non è stasera, se fosse anche domani invece che stasera, vabbè, poco cambia, possiamo resistere tranquillamente 12 ore o 24, ma tu hai la sensazione che al di là delle dichiarazioni di intenti ci possa essere qualche intoppo serio, oppure si tratta solo di attendere, per dirla tutta? Praticamente è stato anche annunciato che domani Topolanik è atteso a Mosca per discutere con il premier russo Vladimir Putin della crisi del gas tra Russia e Ucraina, che ha lasciato l'Europa praticamente al freddo. E ci vorranno, se nella migliore delle ipotesi questo accordo sarà concluso domani, ci vorranno comunque 24 ore, non 3 giorni, ma come ha dichiarato il portavoce di Gazprom Sergei Kuprianov, tecnicamente 24 ore per riaprire i rubinetti e per riattivare il flusso del gas verso il sistema di gasdotti dell'Ucraina. Vale a dire che domenica il flusso del gas potrebbe ripartire. Vabbè, noi ce lo auguriamo. Grazie per ora Vladimir Saponchikov in collegamento con noi da Mosca. Le informazioni per chi è in viaggio, poi ultimo tema, insomma, movimenti nel mondo bancario, non solo perché lo Stato tedesco si compra di fatto Commerzbank, questo ha ricaduta, ha delle ripercussioni sulle generali e su Mediobanca, ma anche perché nella settimana che si è chiusa con oggi si è molto discusso a Piazza Affari di ipotesi di fusione UbiBanca, Banco Popolare da un lato, Mediobanca, Unicredit dall'altro. Insomma, sembra un po' ripartire il cosiddetto risico bancario. Ultimo tema della puntata, il mondo bancario su due fronti. Iniziamo dalla notizia più recente, quella che ieri abbiamo letto in diretta. Lo Stato tedesco è entrato con il 25%, 10 miliardi di euro, non robetta, nel capitale di Commerzbank. Tra l'altro è una minoranza di blocco, come si sarebbe chiamata una volta. Già nel 2008 la Germania, lo Stato tedesco, aveva concesso a Commerzbank 8 miliardi di capitali freschi e 15 miliardi di garanzie. Nel 1932, sulla scia della crisi del 29, fu parzialmente nazionalizzata la stessa Commerzbank, che poi tornò privata nel 1937, questo come riferimento storico. Ripercussioni anche in Italia, perché Generali è azionista di Commerzbank con il 6,5% e a sua volta la banca tedesca ha l'1,7% di Mediobanca. Cerchiamo di capire, oggi i titoli tutti in calo e anche pesante Generali meno 5,3%. L'analisi complessiva e il ragionamento che fa il mercato con Alessandro Praterotti, caporedattore responsabile delle pagine di finanza del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, al di là dell'ingresso dello Stato tedesco, che chiaramente è un salvataggio di fatto, come mai il titolo oggi Commerzbank ha perso molto in Germania e come mai anche Generali ha avuto un calo del meno 5,5 quasi e Mediobanca del 3,90? Dunque, diciamo, andiamo per ordine. Per quanto riguarda il caso tedesco, il mercato a che cosa sta reagendo? Al prezzo pagato, 10 miliardi, 25% più un'azione, è un prezzo che è giudicato estremamente alto dal mercato, un prezzo che sta un po' squilibrando, naturalmente, come ci aspettavamo già da tempo. L'ingresso dello Stato nelle banche è un elemento importante di salvaguardia del credito nazionale, ma anche un elemento che destabilizza i mercati, perché non dà una visibilità di lungo periodo, non dà un'idea, un valore esatto di quello che sono i prezzi di azione delle banche, e quindi naturalmente il mercato in questa circostanza punisce il titolo. Secondo elemento, che è un po' alla base di quello che sta succedendo, diciamo, in questo senso c'è una crisi del credito dell'economia tedesca, che lo vediamo anche attraverso i licenziamenti annunciati, che è molto forte. Qui si ha timore che tutto il mercato economico, il mercato finanziario e industriale tedesco sia una situazione estremamente grave, e questo è il fattore G, ovvero il fattore Germania. Come questo condiziona il resto del mercato, soprattutto l'Italia e alcuni titoli che avete giustamente citato, come Generali, Unicredito, Mediobanca? Generali, la quota di Generali intanto, non solo quella che giustamente facevi riferimento te dalla Germania verso l'Italia, ma anche Generali sono azionisti verso il gruppo tedesco. Certo. Ecco, con l'ingresso dello Stato, Generali avranno una quota molto più bassa di quello che ci si aspettava nel nuovo gruppo, e questo non è indifferente. Secondo elemento su Generali, Beh, Generali sta anche scontando oggi la prospettiva di un utile a fine anno, sicuramente a fine anno, questo che abbiamo appena chiuso, e poi anche le prospettive del 2009 naturalmente, molto più basso, parliamo più della metà, meno della metà di quello che ha fatto nel 2007. Quindi Generali va in questo momento davanti a degli scontri industriali che sicuramente stanno penalizzando il titolo. Poi vediamo l'altro titolo oggi molto penalizzato dagli investitori, Unicredito. Perché? Perché Unicredito ha un'esposizione verso la Germania molto forte, e qui ritorniamo al caso dell'Europa centrale, il caso di Commerz. La Germania che prospettive ha di far guadagnare le banche? Molto basse, molto molto basse. Unicredito è sbilanciata ancora dopo l'acquisizione di HVB, Hypo-Vereinsbank, e del, diciamo così, di tutta l'esposizione che ha fatto anche attraverso Bank of Austria nei confronti della Germania. Ecco, cioè in questo momento gli investitori si aspettano che, se va così male per una banca come Commerz, per una banca straniera che opera in Germania, la situazione potrebbe essere anche più pesante. Quindi questo è un clima generale di pessimismo che c'è in questo momento intorno alla Germania, e di cui si sconta naturalmente sul prezzo di borsa. Allora, Alessandro, adesso vorrei allargare il tema anche ad alcune vicende italiane, sempre sul settore bancario, ma ti anticipo l'ultima domanda, visto che abbiamo aperto il programma con l'astrologa e gli astri, la borsa, facendo un raffronto con le previsioni degli analisti, di quanto ci hanno cannato gli analisti rispetto agli astrologi, se poi ti ricordi una, due casi di previsioni completamente sballate, anche a breve, di varie case d'affari, banche d'affari, analisti, poi ce le regali come una chicca. No, ma la seconda domanda intanto è, questo è il fronte Commerzbank, Generali, Mediobanca. Nella settimana che si è chiusa con oggi abbiamo visto però ripartire anche le voci smentite con comunicati ufficiali di possibili fusioni bancarie. Mi riferisco soprattutto a UBI Banca con il Banco Popolare e di nuovo Unicredito con Mediobanca. Al di là della, insomma, del fatto che ci possa essere un elemento di veridicità, sta ripartendo a questi prezzi un po' di risico, un po' di shopping bancario? Diciamo così, questi sono prezzi che sulla carta sembrano favorire dei progetti di aggregazione, perché sono prezzi molto bassi, ma proprio perché sono molto bassi gli amministratori delle banche preferiscono aspettare che i prezzi ritornino un po' più su per poter fare delle operazioni. Quindi diciamo questo va inquadrato in questi termini. Quello che possiamo dire sicuramente è che il 2009 sarà nuovamente un anno di consolidamento delle banche, ma va molto più selettivo di quanto è stato in passato, e soprattutto un processo nazionale. Quello che ci sta dicendo oggi il mercato è che le fusioni transfrontaliere, i takeover, gli acquisti di banche dalla Francia all'Italia o da altri paesi, è molto difficile che si verifichino. Allora che cosa fanno oggi gli investitori e gli analisti? Guardano quelle situazioni che sono giudicate ancora in divenire su alcuni titoli bancari. È giustamente citato UBI Banca e Banco Popolare, perché c'è la sensazione che il Banco Popolare viva ancora che l'ex Lodi viva ancora delle forti tensioni interne, anche di solidità, per cui ci si aspetta un aggiustamento. Ci si aspetta soprattutto che dal mondo delle banche popolari cresca la massa critica attraverso altre aggregazioni, sia attraverso un modello federale o attraverso un modello di acquisizioni, ma che qualcosa avvenga sicuramente. L'altro nodo riguarda Unicredito. Unicredito oggi ha perso molto, abbiamo detto che sicuramente la componente tedesca sta pesando, ma ci sono anche queste voci che noi stessi il Sole 24 Ore ha rivelato questa possibile idea che è di dossier di fusione con Mediobanca. Ma perché? Perché oggi le banche di investimenti, come è avvenuto già in America, hanno bisogno di un funding, cioè di un flusso di finanziamento, di raccolta di denaro fresco, molto molto molto forte, per poter sostenere la loro attività di investimento ma anche di impiego. Naturalmente un'aggregazione in questo senso industriale, ovviamente, fra Mediobanca e Unicredito darebbe a Mediobanca una rete di retail enorme, e quindi sicuramente il mercato, perché il mercato dice sì, infatti la reazione alle notizie che abbiamo dato è stata molto di crescita di quei titoli, perché per il mercato un'aggregazione fra una rete così vasta come quella di Unicredito e una capacità di azione sul sistema impresa come quella di Mediobanca sicuramente sarebbe una forte combinazione. Verrebbe... Ma sono dossier, sono ipotesi, certo. Quindi questo è un po' il quadro. Allora, l'ultima domanda te la faccio però presentandola con la sigla che ci ha accompagnato dall'inizio puntata. Allora, dimmi se hai pensato alla previsione più strampalata, meno azzeccata delle varie Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch nel corso del 2008. questo, visto che ne abbiamo lette una raffica, ma insomma era solo la punta dell'iceberg. Alessandro, il tapiro d'oro, se possiamo dire, potremmo darlo a Goldman Sachs quest'anno, che ci ha fatto, ci ha spaventati tutti, prevedendo il petrolio a quote stratosferiche, quasi a $300, quando poi, per vedere poi, ecco appunto, che gli economisti, gli analisti di Goldman non avevano previsto né la recessione né l'effetto devastante della crisi del credito sulle imprese, e quindi il petrolio inesorabilmente adesso sta scendendo. Questo io credo che sia l'elemento più importante, quello del petrolio. Allora, così, a giudizio insindacabile, il nostro premio se lo vince Goldman Sachs. Noi avevamo anche altri soggetti in mente. Grazie a Alessandro Praterotti, capo redattore della Finanza del Sole 24 Ore, e grazie a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza in redazione, Filippo Aureggi per la regia tecnica. Da Sebastiano Barisoni le auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.